Ciao a tutti. Caldo argentino. Attraversato, viali vuoti o raccogli di affanni, tra le baracche abbandonate, io mi dileguerò. Storie forse di soldati, di soprusi in una terra straniera, la mia corpi ammucchiati, oh, se non mi vedi tornerò. Cinque loschi figuri, ormai la frase lo sapevo già. Calci e pugni mi confermano l'umore barbaro della città. Respubblico finzione, ordini dati sino all'aberrazione. Magia e religione, no, i tanghi della passione. Questo caldo, amado mio. Quando ti rivedrò.